Convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Ives che aspetta l'inserimento, il cross e poi il tocco di Belotti che si riprende. Quanto l'errore di prima gli aveva tolto. Terzo gol. Sbagli il rigore, fai tre gol, ci metti la firma. A sto punto sì, purtroppo per me e la mia squadra hanno già sbagliato in due partite. Però beh, oggi ho compensato con una tripletta e la squadra ha giocato bene, abbiamo vinto, quindi va bene lo stesso. Pronto all'inserimento Izzo, prepara il traversone, cercare Pavoletti che ci mette la punta. Pallone nell'angolino, un gol splendido di Pavoletti. E 3-1 Genoa, doppietta per Leonardo Pavoletti. La nazionale ha trovato un grande attaccante. Potrà essere un gruppo meraviglioso, abbiamo tanta fame, quindi... A parte tagliando fuori il primo tempo perché siamo stati disastrosi, ma poi siamo veramente un gran genio. Ci divertiamo, proviamo a giocare sempre e quando le gambe poi iniziano a sciogliersi si vede un po' la differenza anche sul campo. Il numero di Frel, Berardi con il sinistro! Ancora e sempre Domenico Berardi. Io cerco di dare il massimo e devo allenarmi al 100% in settimana e cercare di dare il massimo come sto facendo e devo continuare. Sicuramente giochiamo ogni tre giorni, però a me sinceramente piace questo sport e quindi giocare ogni tre giorni veramente piace. Siamo stati facili, facilissimi profeti ieri quando vi abbiamo fatto ascoltare ieri pomeriggio le parole di Ventura su Berardi fuori dalla nazionale perché non ha dato al 3-5-2 che credo, poi però abbiamo colleghi illustri con cui discutere di questo tema. E a proposito, 800 24 00 24, aspetto anche voi fino alle 15 in diretta oppure sms e whatsapp 349 238 6666. Io credo in realtà che quello di ieri sia stato un autogol a livello comunicativo di Ventura, che è forse andato un po' lungo con questa dichiarazione di chiusura a Berardi e del Sharawi, a tutta una generazione di talenti che però giocano esterni offensivi e non sono adatti al suo modulo. Poi sono arrivate le precisazioni sulle qualificazioni difficili, su tutto il resto, però il dibattito tra gli integralisti e quelli che mai rinuncerebbero a un talento in nome del modulo si è messo in movimento. Pierluigi Pardo, ciao. Ciao, come va? Bene, bene, l'abbiamo detto ieri, che l'abbiamo fatta ascoltare quasi in diretta, l'abbiamo detto che su Berardi Ventura rischiava di farsi male. Sì, anche perché ha fatto qualcosa di abbastanza inusuale, anche se da un certo punto di vista anche di ammirevole, cioè ha parlato chiaro. Parlo CEO, dicono a Genova, se non sbaglio, no? Ha parlato chiaro, forse troppo chiaro, e quindi adesso sicuramente qualche critica se la becca. Saluto anche Maurizio Pistocchi. Ciao Maurizio, collega di Mediaset Premium. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. Io penso di immaginare tu da che parte stai, tra integralisti e quelli che un talento non si può sacrificare al modulo, però se ci vuoi dire... Ma io penso che il lavoro del commissario tecnico sia molto diverso dal lavoro dell'allenatore. Come ben sappiamo, c'è poco tempo, ci sono spazi molto stretti, il girone è un girone complicato perché c'è la Spagna, che è una squadra che ha dato al calcio mondiale negli ultimi anni i maggiori titoli e le maggiori soddisfazioni dal punto di vista estetico. Penso che sia un errore perché la motivazione non è molto coerente anche col passato recente di Giampiero Ventura. Lui ha fatto grandissime cose al Torino, giocando con Immobile prima punta e Cerci, che è un esterno destro, ha impiegato da secondo attaccante. Quindi l'adattabilità del giocatore poteva essere una variabile da tenere in considerazione. È chiaro che il mio discorso è molto semplice. Io penso che oggi per fare dei buoni risultati e giocare un buon calcio non si possa prescindere dalle qualità individuali. Cioè, l'allenatore di oggi non può avere in testa un'idea, uno schema e pretendere che vadano solamente i giocatori adatti a quell'idea. Oggi l'allenatore bravo è quello che prende i giocatori che gli fornisce la società o in questo caso il campionato italiano, i migliori, e adatta lo schema ai giocatori. È chiaro che anche perché non ne abbiamo di tanti bravissimi noi. Anche sta venendo su una generazione, insomma, probabilmente la situazione non è così nera come l'abbiamo dipinta, però la verità è che a uno come Berardi è difficile rinunciare così in partenza. Sono d'accordo con te, è il talento più importante che ha espresso il calcio italiano nell'ultimo periodo, basta vedere quello che ha fatto in Europa League, è un ragazzo che ha grandi qualità perché ha piedi, ha facilità nell'uno contro uno, è un giocatore che può veramente fare la differenza se continua con questa crescita esponenziale. Mi rendo conto che probabilmente Giampiero è stato un po' equivocato in questo senso. Se l'avesse fatto un allenatore di una squadra di club sarebbe stato giustissimo criticarlo. L'allenatore di una squadra di club ha un anno di tempo per mettere insieme un'idea di gioco e quindi non può assolutamente farsi condizionare dalle qualità e dallo schema. L'allenatore della nazionale è diverso, lui è reddito una squadra che ha un'impostazione di base, che è quella che ha dato Conte, con i tre difensori centrali che sono un po' la forza della Juventus da vari anni e anche della nazionale all'ultimo europeo. Deve per forza andare almeno inizialmente su quello stilema, però a mio modo di vedere qualcosa di diverso poteva fare, per esempio giocare con un 3-4-3 in cui Berardi e Sharawi, o Berardi e Insigne, o Bernardeschi e Insigne potevano essere gli attaccanti esterni ideali di complemento di una prima punta centrale. Tu sai bene che abbiamo pochi attaccanti centrali, tant'è vero che oggi si parla di Pavoletti, che è un signore di buone qualità che arriva però a un discorso di Serie A alla bell'età di 20 anni. Sì, sì, e sicuramente non è un giovane. Pier, per mettere tutto sul tavolo, allora, intanto facciamo risentire questo Ventura su Berardi che ha scatenato mille discussioni. È abbastanza evidente che nel 3-5-2 ho dimenticato il Sharawi, prima parlando di quelli che non erano stati convocati. È evidente che il Sharawi è stato convocato, ma aveva pochissime possibilità di essere utilizzato, non perché il Sharawi non è un ottimo giocatore, ma semplicemente perché in quel modulo non c'è il ruolo di Sharawi. Quindi voglio dire, credo che sia banale questo che dico. Lo stesso discorso in parte vale anche per Berardi, quindi finché il modulo è questo è evidente che gli esterni offensivi trovano difficoltà a trovare collocazione. E poi ti faccio sentire anche quell'altro passaggio che ha fatto discutere, quello sugli stage per una sorta di Italia 2, una nazionale sperimentale per quelli fuori almeno inizialmente al progetto. Io ho proposto, poi vediamo se ce la farò, mi parlavano di stage, io ho detto che gli stage non li volevo fare, quindi vado controcorrente, ma volevo fare invece dei raduni con tutti quelli che non fanno parte oggi del gruppo 3-5-2. Questo vuol dire che potrei portare avanti un discorso completamente diverso dal punto di vista tattico. Che ne dici, Pier? Secondo te è un'idea o è semplicemente la cosa che dicono un po' tutti i CT all'inizio della loro avventura e che poi tanto sappiamo come andrà a finire? Io dico che non c'è lo scandalo, nel senso che alla fine Ventura ha fatto quello che ha fatto ad esempio Antonio Conte. Credo che il riferimento fosse proprio lì, il discorso di Escalawi. Cioè, la nazionale ha una intelaiatura, ha una grande eccellenza, che è la difesa, e l'ha dimostrato. Per quanto potrà durare, non lo so, perché comunque sono giocatori non più giovanissimi, ma sono giocatori nel pieno della loro maturità e della loro forza. Questa difesa è sano che giochi a tre, per quello che si è visto e ma ci sono risultanze molto chiare e molto precise. E questo quindi poi porta a cambiare il tipo di atteggiamento. Sono d'accordo con Maurizio, sicuramente 3-4-3 è un'ipotesi nella quale magari con un esterno un pochino più difensivo, un altro un pochino più offensivo puoi giocare. Cioè puoi giocare con Berardi e Bernardeschi, tanto per essere chiari, se c'hai o con Berardi e con Florenzi, o con Sharawi e con Florenzi, cioè puoi fare questo tipo di situazione e poi ci saranno anche partite delle quali invece avrai bisogno di una forza offensiva superiore, perché non è che tutte le partite contro le grandi rivali, quindi questo ragionamento secondo me Ventura lo porterà avanti. In assoluto secondo me è solo un po' un errore di comunicazione, nel senso che ha parlato con le stesse parole con le quali parla magari al ristorante con gli amici, ecco, solo questo è il punto. Sì, che però è preoccupante, è preoccupante, perché questa è la conferenza stampa che prepara da due mesi, è la prima. Però posso dire anche una cosa, qui c'è il fatto che Ventura, che pure è un buon allenatore, non ha, diciamo, in questo momento alle spalle gli stessi risultati, la stessa forza che avrebbe Marcello Lippio, che avrebbe Antonio Conte o Massimiliano Allegri. Cioè, questa è la sostanza, perché altrimenti un ragionamento del genere fatto da Conte, secondo me, non avrebbe scatenato la prima pagina sui giornali come quella che abbiamo visto oggi, per esempio. No, quindi secondo me c'è molto di questo ragionamento. Ventura ha ragionato come Ventura, ha fatto la stessa scelta che ha fatto Conte. Poi che questa scelta sia giusta, non è che Berardi 3 mesi fa fosse scarso, No, però Berardi 3 mesi fa poteva anche essere non magari considerato pronto per l'inizio di un ciclo. Con Ventura un ciclo inizia. Secondo me questo fa la differenza. Non è che manchi i giovani. No, però l'idea che resti fuori, quello che pare essere, ha tutti i numeri per essere il talento numero uno. Posso dirti una cosa? Io voglio aggiungere un elemento, lo aggiungo per te e per Maurizio, poi ci sono anche Paolo e Matteo che hanno già chiamato 800-24-00-24. Io voglio sapere da che parte state in questa divisione tra integralisti e quelli che il talento non si sacrifica al modulo. Tavecchio, pochi minuti fa, su Berardi, ha detto: nel sistema non conta un giocatore va e viene, è l'organizzazione che porta i risultati. Cioè, io ho l'impressione che ci sia proprio una valutazione complessiva su come va affrontato questo nuovo ciclo, e io ho l'impressione che noi il tormentone su Berardi iniziamo oggi, anzi abbiamo iniziato ieri, e ce lo portiamo avanti per un biennio. Posso dirvi che l'idea di fondo probabilmente è un'idea che a livello internazionale potrebbe avere anche delle varianti. Vi faccio un'ipotesi: come mai Guardiola ha cercato per un po' di tempo Bonucci, non certo per giocare con la difesa 3, ma per utilizzarlo come ha utilizzato Vidal, per esempio, nella partita contro la Juventus a Torino. Lui utilizzava Vidal davanti alla difesa, però Vidal in possesso palla rimaneva tra i due difensori centrali, i due terzini diventavano mezze ali e la formazione di Guardiola attaccava in pratica con un 3-3-4, due punte centrali che erano Thomas Müller e Lewandowski e due esterni. Cioè tutto parte dall'idea di calcio che tu hai. Se tu hai un'idea di un certo tipo, puoi giocare benissimo con dei giocatori offensivi sugli esterni più due punte, però devi avere un'idea. Cioè, mi sembra che per il momento Giampiero, che ripeto è un buonissimo allenatore, ricordiamoci che lui a Bari giocava con 4-2-4, cioè un modulo iperoffensivo, e giocava molto bene. Ed è un uomo che conosce calcio, che ha fatto calcio per tutta la sua vita. Dobbiamo anche pensare che lui arriva in una situazione in cui i giocatori li vede per la prima volta, c'ha poco tempo per preparare la squadra. Probabilmente, come dice giustamente Pierre, è un errore di comunicazione. Lui non è tanto esperto nella comunicazione, basti pensare ai problemi che ha avuto a Torino con tutto Sport. Ha avuto dei problemi enormi, sì, proprio per la comunicazione. Sì, sì. Quindi probabilmente siamo reduci da un inverno di prime pagine. Di prime pagine. Tra le altre cose, cosa ha fatto Ventura a Torino lo sanno tutti: 150 milioni di euro di plusvalenze al Toro negli anni in cui è stato lì. Cioè, è un valorizzatore di capitale straordinario, Giampiero. Però credo che anche la federazione potesse preparare meglio questa conferenza stampa. C'erano delle domande abbastanza prevedibili. Uno dei grandi segreti di José Mourinho, che non ha mai sbagliato nella sua vita una conferenza stampa, è l'adio paredes, cioè il suo ha detto stampa personale, che prevede anche le domande impossibili. Questo forse è un po' difficile da fare con la federazione, però nello stesso tempo la federazione all'esordio con un nuovo commissario tecnico doveva preparare meglio questa conferenza stampa. Questa è la mia sì, sicuramente c'è stato quantomeno un autogol comunicativo. Grazie Maurizio. Grazie a voi, Maurizio. Ciao Pier, buona giornata. Ciao. Grazie ciao, Maurizio. Pier. No, ma anche perché appunto non è che Ventura sia un integralista del 3, per dire. Però era una delle accuse che gli rivolgevano l'anno scorso i tifosi del Toro, cioè di essersi inchiodato al 3-5-2 e di non prevedere nessun tipo di variante. Ma siamo a Sarri si è inchiodato al 4-3-3 allora. Ma difatti ieri De Laurentiis su Twitter gli ha scritto che gli ha preso Rogue, così potrà variare anche il centrocampo, magari giocare a due. Altro tema di cui oggi parliamo, perché io non so Sarri come possa averla presa. No, beh, non bene, però voglio dirti Ventura per me non è un integralista. Ricordava giustamente Maurizio che ha giocato a 4 lungamente nella sua vita, nella sua carriera. Ha giocato veramente col 4-2-4 a Bari, che era una delle cose più divertenti e più particolari che c'erano tatticamente in quegli anni. Secondo me ha fatto questa scelta perché ancora, esattamente come per Conte, comanda la difesa. La nostra eccellenza principale è la difesa, e quindi è partito così. Su Berardi, io fossi stato lui, me lo sarei portato, al di là del fatto che poi si è fatto male. Che poi si è fatto male, certo. Me lo sarei portato anche per vederlo, anche per conoscerlo, anche per verificarlo con altre caratteristiche, ma soprattutto per prevenire questo problema, anche perché Berardi in questo momento è veramente in una enorme condizione, quindi strameritava la chiamata per quello che sta facendo per vista proprio tecnico in questo inizio di stagione. Quindi me lo sarei portato furbescamente per vederlo e anche per evitare per evitarmi un problema. Però il tema c'è, è esattamente la stessa questione che ha portato Conte a non convocarlo e ha portato il Sharawi a essere convocato ma a giocare pochissimo dopo un periodo. Il tema divide, Pier, ci sono anche i retroscenisti, quelli per cui Berardi non va in nazionale e paga così il no alla Juve, guardate che siete fuori strada. Adesso ci sono Paolo da Genova e Matteo dalla provincia di Modena. Prima però facciamo un minuto di traffico, chiedo un minuto di pazienza, poi ripartiamo da loro, vi leggo anche alcuni dei messaggi che sono arrivati. Tutti convocati. Convocati. Vi leggo alcuni messaggi arrivati al 349-238-6666, sms e whatsapp, oppure 800-24-0024 per intervenire in diretta. Allora, c'è chi dice che Ventura fa come Conte, semplicemente ha avuto il coraggio di dirlo chiaramente, Conte invece no, questo scrive Bruno. C'è anche chi dice che il modulo è un po' una scusa, in realtà Ventura come tanti pensa che Berardi sia immaturo di testa. E poi ancora c'è chi ricorda che Ventura i giocatori li conosce tutti e quindi non ha necessità di provarli, fossi in Berardi mi vedrei già tagliato. Insomma, è una questione questa che divide. Paolo da Genova, Paolo. Ciao ragazzi, ma io sono lievemente basito perché dopo la scelta coraggiosa di Ventura di convocare Belotti e Pavoletti, che poche ore dopo le convocazioni fanno una marea di gol e anche dimostrando mezzi tecnici ottimi, ci si concentri sul caso Berardi che non esiste secondo me, veramente io sono, anzi sembra una scelta coraggiosa, Ventura ha un quadro delle idee, un quadro della situazione chiaro e mi sembra veramente darsi delle martellate sui piedi da soli, è ridicolo parlare di questo. Sì, io per carità Paolo, stiamo comunque parlando di un giocatore che ha 22 anni e un mese, perché ha 22 anni e un mese Berardi, è arrivato domenica a quota 40 gol in Serie A e non è nemmeno una prima punta, io credo che almeno parlarne si possa, Pier, almeno. No, ma assolutamente, ma è giusto parlarne e ti ripeto, tutto che Ventura io lo considero, perché veri sono pochi, ma insomma una persona con la quale penso di avere un'ottima relazione che si può molto. Penso che sicuramente abbia commesso un'ingenuità, c'era un ascoltatore che diceva ha fatto la stessa cosa, ha fatto Conte, solo che a differenza di Conte è stata l'esperienza forte in questo modo qui, certe cose non le puoi dire tutte fino in fondo, no? Perché poi ti presti una critica. Ma comunque sia, io non credo che Berardi sia tagliato fuori dal gruppo di Ventura, assolutamente. Io credo che Ventura abbia in questo momento bisogno di orientarsi, penso che quel tipo di difesa è la stessa difesa che ha utilizzato Conte, che il 3-4-3 probabilmente non è ancora nelle corde, sarà un step successivo, un passaggio successivo, quindi penso che Berardi non sia assolutamente fuori gioco. Sì, forse pesa anche la paura di iniziare col piede sbagliato un girone che sarà complicatissimo. Saluto Demetrio Albertini, ciao Demetrio. Ciao, ciao a tutti. Che adesso coinvolgo immediatamente, prima però c'è Matteo che ci sta aspettando, Matteo dalla provincia di Modena. Matteo. Sì, salve, guardi, io dico un allenatore senza gran pedigree che si presenta il primo giorno, diciamo tra virgolette tagliando uno dei talenti migliori italiani, beh, non mi sembra, comunicativamente è un grosso autogol. Poi faccio una domanda così, se fra un anno Berardi passasse, che so, in una società big, facesse bene, cosa fa? Poi non lo chiama lo stesso perché secondo lui non... Io non mi immagino fra 2 anni che non ci sia Berardi tra i 6 attaccanti da portare in Russia. Sperando di andarci in Russia, cosa che dobbiamo metterci in testa è tutt'altro che scontata. Demetri, tu da che parte stai? sinceramente spero che non sia che non sia il modulo a tagliare fuori Berardi, e spero che le sue prestazioni possano alla fine, come sta facendo, portarlo a giocare in nazionale. Io in nazionale chiamerei sempre i migliori, quello dal mio punto di vista, ma non faccio l'allenatore, capisco anche che sta costruendo una squadra, però si comincia a costruire il gruppo anche all'inizio del biennio, quindi io personalmente l'avrei portato Berardi. Sì, dà un po' l'impressione di essere legato a un solo modulo, ne parlavamo anche prima. Poi magari è un'impressione sbagliata, ma è anche la stessa critica che i tifosi del Toro per un anno hanno fatto a Ventura, l'anno scorso. Non lo so questo, di certo quando sei in nazionale sono delle volte che il giocatore di talento e quindi abituato alle prestazioni importanti, poi alla fine ti determina la partita oltre il modulo, questo è, deve esserci una base di costruzione, quello è il compito dell'allenatore. Poi dopo la nazionale è sempre anche difficile poter lavorare perché non hai il quotidiano e quindi il talento, la qualità è predominante secondo me. Mi dite, partendo da Pierluigi Pardo, che cosa ne pensate di questa idea degli stage solo per quelli fuori dal progetto del 3-5-2 giovani, per fargli fare delle amichevoli a parte, che in questo Ventura è nuovo, altri non hanno chiesto niente, qualcuno ha chiesto gli stage e quasi sempre non li ha avuti, Pier? Questa mi è sembrata una cosa, un passaggio un po' avventuroso, anche perché sempre dal punto di vista di comunicazione non è che mi sia piaciuto molto, nel senso, comunque poi ha detto vediamo se sarà possibile, insomma è una cosa o la chiedi o non la chiedi, secondo me, fino a prova contraria, e l'idea non è sbagliata, ripeto, è molto coerente, se lui vuole partire con questo modulo e con questo gruppo, però è aperto a studiare altre soluzioni e quindi piuttosto che chiedere degli stage generici chiede un tipo di clinic specifico per questo genere di giocatori, però anche lì l'idea è buona, la comunicazione non mi fa impazzire, ecco, non mi è sembrata proprio impeccabile. Tu cosa ne pensi, Demetrio? Io devo dire che li ho vissuti prima da giocatore e poi dopo da dirigente. Personalmente credo che la cosa più importante in nazionale sia costruire il gruppo, qualificarsi il più presto prima possibile e poter lavorare, avere più tempo magari prima della fase finale, avere più tempo per lavorare. Per quanto riguarda gli stage durante l'anno, credo che forse siamo l'unica nazione che li chiede. So che possono essere utili soprattutto per il CT, per vedere magari quei giocatori che in altre occasioni nelle partite ufficiali non ha convocato e magari stanno facendo bene nel campionato. Quindi io dico gli stage quasi per le seconde linee, no? Proprio per avere il ricambio. Io mi ricordo uno stage di Prandelli che gli permise di portare alcuni giocatori, conoscerli di persone e portare qualche giocatore per l'europeo. Però mi immagino, Demetrio, cioè, seguendo il filo del ragionamento di Ventura di ieri, mi immagino ad esempio che in questo stage o stage, perché qualcuno ci ricorda che è una parola francese, quindi va pronunciata la francese, ad esempio Ventura dovrebbe chiamare lo stesso Berardi, dovrebbe chiamare Sharawi, dovrebbe chiamare De Sciglio, cioè anche convincere magari grandi club come la Roma, come il Milan, magari come la Juventus con alcuni difensori centrali, a lasciare i giocatori per insegnargli il 3-5-2 per delle amichevoli che nemmeno sono poi la vera attività della nazionale, insomma a me sembra un po' ardito come passaggio. Come ho detto, bisognerebbe partire dal presupposto e chiamare magari i più talentuosi, quello che penso. Lo stage l'ho vissuto e quindi dico che secondo me aiuta il CT, che magari può allenare, avere più a disposizione più ore d'allenamento, però alla fine non ti dà quello che uno può sperare a livello di gruppo. Come ho detto, la cosa importante sono le partite, sia le amichevoli, quelle reali, non lo stage. E poi credo anche proprio che se si vuole aiutare la nazionale bisognerebbe magari lasciare più tempo prima della fase finale, quindi una sera magari qualche qualche giorno in più, qualche settimana in più prima di della fase finale, quindi in questo caso del mondiale, dopo che ha qualificazione ottenuta. Io punterei più su una fine anticipata di un campionato nel 2018 che avere gli stage durante questo biennio. Sì, che poi è quello che ha provato a fare Conte e sappiamo tutti a maggio come è andata a finire. Grazie Demetrio. Grazie a voi. Ciao Demetrio, questo ciao, però ciao, il tema, ciao. Grazie Demetrio, sì. È il tema decisivo secondo me, perché alla fine poi, essendo l'attività della nazionale concentrata ogni due anni per ottenere un grande obiettivo, quello che più conta è che i giocatori arrivino in forma e l'allenatore arrivi in forma, nella conoscenza con i giocatori è quel grande obiettivo. Quindi dal punto di vista del calendario questa è nettamente secondo me la soluzione migliore, al costo di fare un paio di turni intrasettimanali in più in un calendario che lo sappiamo è particolarmente denso, quindi non è facilissimo. Però questo è veramente il tema secondo me decisivo e dirimente, più che andare a organizzare delle cose durante l'anno, che poi in realtà appunto l'idea di questi stage da parte di Ventura assomiglia a cose che ha fatto anche Conte e che ha fatto ancora prima Prandelli, quindi non c'è niente di così clamoroso. Poi chiamiamoli pure stage. Poi ha ragione un amico che scrive: non sarà mai fatta perché tanto non c'è nelle regole della FIFA e alla fine i club si tireranno indietro. Cosa che storicamente è praticamente sempre accaduta, e quindi c'è anche il rischio e il sospetto, comunque tu li voglia chiamare, che accada anche per Ventura, che accada anche in questa situazione. Abbiamo un minuto prima della borsa, facciamo Luca da Roma. Luca, buongiorno a tutti. Allora, io volevo dire solo due cose molto velocemente. Innanzitutto sono molto d'accordo con quello che ha detto Demetrio Albertini, cioè io penso che nella nazionale si dovrebbe cercare di far giocare sempre i giocatori migliori. Allora, noi abbiamo non tantissimi talenti, qualcuno ce l'abbiamo, Berardi è uno di questi, Insigne anche, di cui non abbiamo parlato oggi, Bernardeschi eccetera, e non farli partire nel gruppo che inizia oggi l'avventura per l'europeo ai primi mondiali dal mio punto di vista è un errore, anche perché tra un anno si rischia di sentire la manfrina del non li convochiamo più perché ormai il gruppo che ci ha portato ai mondiali o ci sta portando ai mondiali è questo, sì, ormai va rispettato, tutto fatto, eccetera. E l'ultima cosa, avete accennato molto spesso al fatto che Berardi è giovane, Ricciaravi anche, ecco, su questo se mi permettete, mi sembra che la nazionale italiana sia un po' lo specchio della società, cioè si considerano giovani persone di 24 anni, 25 anni, 23, che magari hanno già una carriera alle spalle importante, come nella società prima praticamente. Sì, sì, però Luca, Berardi ha compiuto 22 anni, credo il 2 agosto, ha 22 anni e un mese. Berardi è giovane e basta, cioè è giovane per qualunque categoria, poi per Berardi carità. È giovane, è in Olanda fanno giovane. Giocare i 17enni, però. Poi il nostro ascoltatore ha ragione, questo non è un paese per giovani. No, però non è il tema di Berardi. Anche nel calcio, anche nel calcio. Se non aspettiamo due anni non è il tema di Berardi, se non aspettiamo due anni. Da questo punto di vista, Ventura il ciclo lo sta aprendo, nel senso che ci sono dei segnali molto chiari di ringiovanimento di questa squadra, anzi rischia addirittura di essere quasi attaccato se i risultati non dovessero arrivare, proprio perché sta facendo un lavoro che è un lavoro di ricostruzione e di crescita complessiva del movimento calcistico italiano. Ripeto, io Berardi l'avrei portato perché in un momento come questo credo che poteva essere un'occasione, gli avrebbe risparmiato la critica, gli avrebbe risparmiato la domanda di ieri. Ma per il resto io sono convinto che non sia tagliato fuori e che la scelta sia una scelta orientata ai giovani, non ci sono dubbi. Guarda, prima della borsa ti leggo questo messaggio che è bellissimo, non si firma ma lo ringrazio lo stesso. Ventura mi sta diventando simpatico da quando lo state massacrando perché voi avete già dimostrato che non capite nulla di calcio. Questo amico ha vinto tutto, no, e noi lo ringraziamo. Però e noi lo ringraziamo. Lo dico, io mi ricordo come venne trattato Donadoni durante l'esperienza del 2008 all'europeo, dalla stampa e in generale dall'opinione pubblica, perché poi c'è una corrispondenza, poi la stampa in qualche modo condiziona l'opinione pubblica condiziona la stampa, è un rapporto reciproco. Venne trattato male, venne trattato come uno che stava lì per caso, e invece no. E non vorrei che si ripetesse lo stesso errore con Ventura, perché sono uomini di campo di grande livello e poi, come nel caso di Donadoni, lo scopri dopo, no? Che qualità come allenatore. Certo, non ha il carisma di Antonio Conte, non ha il carisma di Marcello Lippi, non ha il carisma di chi in nazionale ha vinto negli anni o comunque ha vinto a livello di club tanto, però insomma sono uomini di calcio con un'esperienza assoluta e quindi ne sanno certamente più di noi. E ti ripeto, a me non sembra così sorprendente la scelta di lasciare Berardi a casa per partire in un certo modo. Il problema di comunicare che avrà poco spazio perché c'è quel modulo lì. Siamo un po' in ritardo, c'è la borsa, poi c'è Mario da Napoli, poi leggo un altro paio di messaggi che stanno arrivando. Borsa, torniamo subito. Pam, pam, pam, pam, pam. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Verona-Torino, trasferta d'affari. Io, un collega e il sistema Digital Radio. Ti va di ascoltare la radio? Certo, ma te la faccio provare in digital. Ne ho sentito parlare. Il suono perfetto che non ti lascia mai nemmeno in autostrada. E in più hai tanti contenuti speciali. Basta un autoradio digitale. DAB Plus. Chiedila al tuo concessionario. Se ami la radio, muoviti a provarla in digital, in auto e a casa. Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti Convocati. Allora, intanto vi chiedo di firmarvi quando scrivete 349-238-6666, sms o whatsapp, però firmatevi, almeno vi citiamo. C'è chi scrive: scusate perché la discussione su Berardi, che è infortunato e quindi indisponibile. È vero, però Berardi non è stato convocato prima dell'infortunio e difatti non è che Ventura ieri ha detto è indisponibile, ha spiegato perché non l'ha chiamato. Poi c'è Andrea dal Sud Tirolo che dice la differenza è che Ventura è vecchio mentre Donadoni era giovane. E poi ancora un altro amico che scrive: Ventura avrebbe potuto portare Berardi, poi magari non farlo giocare ma comunque lo avrebbe stimolato. Poi un altro amico che scrive: mi dite per favore quale nazionale europea non convocherebbe Berardi nelle sei punte? Non lo so, magari qualcuna ha talenti anche superiori, noi forse in questo momento no. Mario da Napoli, Mario. Ciao, ciao. Dai. Sono Mario, grazie per la convocazione, dice così, giusto? Sì, piacere allora, nostro. Dai. Sono sintetico, a me il 2016 è cominciato benissimo, giusto? Questi 8 mesi, vorrei che continuasse così. Sì. E vengo al punto, io sono completamente dalla parte di Ventura, ora è antipatico fare paragoni, Giotto sono io, sì. Il mio soprannome. Cioè Conte, io ho sempre visto poi vincere qua, un po' di De Coubertin, l'importante è vincere a ogni costo. Conte a me non mi è mai piaciuto, mi è esagitato. Ventura è una persona moderata, tranquilla, deve ancora cominciare, già lo attacchiamo, non lo so. Sento questo dibattito su Berardi, mi sembra surreale. Beh, insomma, possiamo anche farlo, Mario, senza rovinarti il 2016 che è iniziato benissimo, o no, Pier? Sì, beh, il 2016 ha avuto varie fasi. Sì. Diciamo un anno, generalmente adesso è fare paragoni. Credo sportivamente parlando intendesse, fermiamo, insomma. No, ma sono d'accordo sul fatto che Ventura sia una bravissima persona, un bravo allenatore, secondo me non è in discussione questo. Appunto, forse poteva essere un po' più furbo a portarselo e avrebbe prevenuto un tema di discussione, al di là del fatto che poi si è anche fatto male, quindi poi il problema neanche si pone. Però certamente questa roba qui, in un momento in cui non abbiamo tantissimo tempo, di un giocatore che invece è partito così bene in stagione, perché Berardi ha fatto cose eccezionali, col fatto del preliminare di Europa League ha avuto modo di mettersi in evidenza prima e di entrare prima in forma, ha fatto cose, in questo momento è l'attaccante più caldo che abbiamo in Italia, però sicuramente, ripeto, non è stata una grande idea dal punto di vista proprio tattico non convocarlo. Però ribadisco, per la nuova volta, che avrà spazio, secondo me in futuro non ho dubbi che possa avere spazio, non ho dubbi che Ventura possa entrare gradualmente, secondo me, al 3-4-3, soprattutto in certe partite, e Berardi con quel tipo di modulo potrà essere un giocatore utile. Io so per certo, perché appunto modo di confrontarmi, che lui considera due le grandi eccellenze del calcio italiano in questo momento: la prima, la più importante, è la difesa, e la seconda è la quantità di giocatori che noi abbiamo come esterni proprio offensivi, che sono tanti, con caratteristiche diverse, perché l'attaccante esterno, perché appunto c'è Berardi, perché c'è o Bernardeschi, perché c'è Florenzi che ha caratteristiche ovviamente un po' più difensive, ma lì noi abbiamo tanto, tanto talento e lui deve trovare la famosa amalgama, come si diceva una volta. Leonardo ricorda che l'Argentina non ha convocato Dybala. L'Argentina sta un po' meglio di noi. Però l'Argentina ne ha tanti. Ti faccio sentire una cosa, Pier, a proposito di Antonio Cassano e la sua telenovela con la Sampdoria ieri. Ferrero: Cassano, per lui la riconoscenza è un optional. Lui mi chiamava sempre, io lo stimo perché è un grande calciatore, è un grande talento. Ma ognuno nasce come Gesù vuole. Lui è uno che si impunta, non so cosa vuole fare, le piace fare guerre. Cioè, sta capendo che le guerre lasciano solo feriti. Oh, cosa deve fare il tuo amico Antonio, visto che a Genova non lo vogliono più? Dagli un consiglio, usa Radio 24 per fini privati. Vabbè. Con qualche ora d'anticipo gli do un consiglio. No, io penso che questa vicenda qui sia una vicenda paradossale, perché poi alla fine il motivo fondamentale, ma è risaputo, è un litigio con l'avvocato, con il factotum di Ferrero dopo il derby perso 3-0, una partita nella quale Cassano era stato tra i meno peggio di una Samp onestamente impresentabile. Poi posso essere d'accordo con Ferrero sul fatto che Cassano comunque non abbia proprio, diciamo, l'abitudine al compromesso e a mettersi attorno a un tavolo a discutere le cose. Io so per certo, e credo che qualche segnale ci sia anche stato, che lui avesse cominciato bene l'estate, fino addirittura dalle vacanze, per starsi tirato e lucido per la stagione con la Samp. Evidentemente però non ci sono le condizioni perché questo possa avvenire, però mi sembra più una scelta della Samp che una scelta di Cassano, anche perché poi da quello che mi risulta non è che Cassano stia ricercando, c'è il Real Madrid che ti cercano 8 squadre in Italia in Serie A, e quindi vai, mi sembra che ci sia poco, e quindi alla fine te devi andare per andare dove? Questo è anche il tema, no? Sì, perché sinceramente è difficile per Cassano pensare di andare, insomma, si è fatto ad esempio il nome dell'Entella, che per carità. Sì, ma voglio dire, ma proprio banalmente, adesso io non so, parlato di recente, ti parlerò breve, ma magari in testa ancora la speranza e la voglia che in un momento in cui la Samp durante la stagione dovesse avere bisogno di lui, lui possa farsi trovare pronto. Credo sia questa l'idea che ha. Due notizie di mercato: la Fiorentina ha quasi venduto Marcos Alonso al Chelsea, quotazione intorno ai 27 milioni di euro. L'altra notizia è che la Juve sta per prestare Hernanes al Genoa, non appena il Genoa sarà riuscito a piazzare Rincon, mentre il Napoli cerca Pavoletti, ha alzato l'offerta a 22 milioni, ma Preziosi ha ribadito il suo no. Francesco da Vicenza, Francesco. Sì, buongiorno. Eccoci. Complimenti perché riuscite a mettere un po' di ironia e drammatizzate un po' anche le chiacchiere. Io concordo pienamente con quello che dice Pardo, mi sembra molto saggio, molto equilibrato. A sentire le opinioni di oggi vi proporrei di chiamare la trasmissione, non più tutti convocati, ma tutti i commissari della nazionale. Insomma, è lo sport nazionale, è lo sport più Francesco. Praticato in ma Italia. Sì, ma è anche giusto così, ci tolgono il campionato per 2 settimane, cosa facciamo se no? O no? Sì, sì, d'accordo, però vedo che effettivamente lo sport più praticato in Italia è quello di commissario tecnico della nazionale. Io direi lasciamolo lavorare Ventura, poi dopo ancora deve fare la prima partita, poi giudicheremo più avanti. Ma io credo, Francesco, al di là dell'autogol comunicativo di cui abbiamo parlato, che manchi un po' di chiarezza di fondo. Cioè, ci vuole qualcuno che si sieda a fianco a Ventura e dica, Pier, non so se condividi, dica: guardate, a noi giovani tutto, sì, per carità, il nuovo ciclo, noi dobbiamo andare in Russia. Quindi qualunque cosa va bene, la nazionale europea ha fatto vedere che con la difesa dei vecchietti e con il 3-5-2 è una nazionale che sta a un certo livello. E da lì si parte. Forse ci vorrebbe un po' di chiarezza, perché se no c'è un cortocircuito che poi porta a parlare. Guarda, posso dire, ti candido a detto stampa della federazione, perché hai detto esattamente quello che è. è esattamente quello che è. Quindi poi alla fine uno può giustamente, anche per motivi di dibattito, di discussione, di polemica, fare delle grandi prime pagine su Berardi, il nostro lavoro, ci mancherebbe altro. Martedì abbastanza stompo, come direbbe Ligabue, senza grandi temi, con la prima conferenza stampa di Ventura, si fa la prima pagina su Berardi, giustissimo, legittimo, però la sostanza è quella là, lo sappiamo benissimo, non c'è una preclusione nei confronti di Berardi, c'è il bisogno di partire in continuità con quello che è l'assetto difensivo della nazionale che un mese e mezzo fa ha fatto benissimo in Francia, perché Ventura vuole partire bene e vuole partire forte. Sì, c'è chi chiede perché Ventura aveva convocato Bonucci, altro errore di comunicazione, ma non c'è nessun errore di comunicazione, Bonucci farà quello che vuole, in questo momento ha problemi più grandi e la nazionale, così come la Juve, l'hanno lasciato libero di decidere cosa fare. Grazie Pier. Ciao, ciao Gio. A domani, ci sono Giacinto e Michael, prima però c'è il traffico. Tutti convocati. Convocati. Allora, intanto Art sta sbarcando a Torino, proprio in questi minuti è il nuovo portiere del Toro. Giacinto. Sì, buonasera. Eccoci. Io volevo parlare della nazionale. Sì. E dire che secondo me con questa nazionale andiamo pochissimo lontano. Perché? Perché non ci sono giocatori. Io faccio un appello al signor Tavecchio. Signor Tavecchio, dobbiamo muoverci per far giocare nelle nostre squadre italiane almeno la metà degli italiani, perché vediamo un Napoli con Insigne quando gioca, vediamo una Fiorentina con Astori e Bernardeschi, un Inter senza un italiano, solamente il blocco Juve e qualche Milan e qualche giocatore in quella, abbiamo Eder che è un brasiliano quasi. Sì, Giacinto, tu hai perfettamente ragione, poi il problema che affronta l'Italia, ma non solo l'Italia, è che poi ci sono le leggi che sono superiori anche all'ordinamento sportivo, non siamo solo noi a far giocare tanti stranieri, il Real Madrid è una squadra fondamentalmente di stranieri, per restare a un grande club, e comunque oggi qualche dato ha raccontato che nelle prime due giornate del campionato di Serie A c'è stata una leggera inversione di tendenza, leggera. Michael. Sì, buongiorno. Buongiorno a te. Guardate, io non mi riesco a seguire sempre perché gli orari del lavoro sono quelli che sono, quindi magari ne avete parlato anche prima e io non l'ho sentito. Vai tranquillo. Volevo sapere qual era la vostra idea sul fatto, diciamo, di Marotta che ha venduto Pogba senza avere nessuno concretamente in mano. Non è stato un rischio? Io non credo che sia andata così. Ad esempio Marotta ha preso Pjanic prima di vendere Pogba. È vero che un po' come un anno fa con Draxler, la Juventus ha fatto un po' fatica e sta facendo un po' fatica a chiudere il mercato, e io dissento da Marotta quando dice che il centrocampista che manca è la ciliegina sulla torta. Secondo me, soprattutto per fare la differenza a livello europeo, è una fetta di quella torta ed è ben più della ciliegina. Però mi sembra che la Juve, come tradizione, abbia venduto Pogba quando i soldi di Pogba in gran parte erano stati spesi, con Benatia, con Pjanic, con lo stesso Higuain, e quindi non si è fatta sorprendere. Però il tema è aperto, e un anno fa ad esempio non è arrivato Draxler, è arrivato Hernanes, e la Juve non ha fatto certamente un buon affare. Marino Bartoletti, ciao. Ciao, buongiorno a tutti. Pagelle del martedì. Intanto il primo voto lo do io, ed è un 3 a chiunque abbia combinato il pasticcio che costa 3-0 a tavolino del Pescara sul Sassuolo, perché c'è un giocatore, Ragusa, che è stato fatto giocare e non era stato segnalato nella lista dei 25 alla Lega Calcio. Poi si capirà se è un problema di mail che non vanno, se si capirà insomma che cosa è successo, però voto 3, chiunque sia stato. Chiunque sia stato, non vorrei essere nei suoi panni, perché sì, conosco l'intransigenza imprenditoriale di Squinzi. Sì, potrebbe non passare un buon quarto d'ora. Probabilmente neanche una buona mezz'ora, probabilmente neanche un buon 2016, visto che prima si parlava di come è stato questo 2016. È incredibile come una società professionistica, fra l'altro con basi straordinariamente importante, ripeto, proprio dal punto di vista imprenditoriale, possa commettere errori di questo tipo. Sì, al di là del fatto che questo poveretto, forse quasi innocente, la pagherà cara, al di là che non credo che si possano cercare alibi di PEC, di mail, di cose del genere, è un errore banale che vanifica non certo le ambizioni del Sassuolo, però in questo momento gli toglie quella bellezza psicologica di essere in testa al campionato. Mi dai un voto alle prime due del campionato, prime due giornate del campionato, che sintetizziamo con le parole di Allegri, che secondo me ha la faccia di uno che non è nemmeno andato in vacanza, perché la Juve ha ripreso esattamente dove aveva lasciato, non solo perché vince sempre e lo fa anche con straordinaria facilità, ma anche perché in fondo gli hanno speso 150 milioni di euro sul mercato e lui li tiene fuori. Allegri: no, abbiamo l'obiettivo quello di vincere il sesto scudetto, però ci dobbiamo arrivare partita dopo partita. Poi abbiamo la Champions, abbiamo la Coppa Italia. Non dobbiamo né esaltarci per queste due vittorie né abbatterci quando verranno momenti più difficili. Ti è piaciuto questo avvio di campionato? Caro Giovanni, Allegri non sbaglia una parola. Guarda, io credo che i Sarri, ma anche i Ventura di cui si è parlato prima, dovrebbero andare a lezione dialettica anche da lui, e parliamo di grandi allenatori e di grandi uomini. Evidentemente la società Juventus sa essere molto contagiosa anche nei confronti, come dire, delle capacità dialettiche di chi le rappresenta. Allegri da un anno e mezzo a questa parte non sbaglia neanche una virgola delle cose che dice, e mi è piaciuto perché è molto frizzante, molto stimolante, perché comunque ci ha regalato, al di là di questo pasticcio del Sassuolo, una classifica assolutamente inedita. Però io sono convinto che il primo mese del campionato sia un grande impostore nel bene e nel male. È evidente che ci sono in testa al campionato un paio di squadre che poi dovranno riassestarsi in qualche modo. È evidente che c'è in coda al campionato, e parlo dell'Inter, una squadra che deve veramente, nei confronti di se stessa, dei propri tifosi, della sua storia, riassestarsi in qualche modo. Resta il fatto storico, numerico, che la Juventus ha 6 punti in più rispetto allo scorso anno, e non è una mera valutazione statistica. No, e a proposito di statistiche, l'altra che insomma secondo me colpisce e dice tutto della solidità sono i due tiri in porta subiti contro Fiorentina e Lazio, perché nemmeno il calendario era stato tenerissimo con la Juventus. Facciamo sentire un altro passaggio di Ventura e della sciagurata conferenza stampa di ieri. Io sostengo che i giovani vanno messi in condizione di potersi esprimere, non li devi mandare alla roulette russa, c'entra la partita, e sei un grande, perdi la partita, sparisci. Io invece dico che il giovane deve essere messo in condizione di potersi esprimere quando poi è in grado di poter, dico, bisogna sempre entrare dalla porta principale. Se tu entri dalla porta di servizio, rimarrai sempre uno che entra dalla porta di servizio. Sciagurata, lo chiariamo, perché alla fine sarà ricordata come la conferenza stampa in cui disse che Berardi non poteva far parte della nazionale. Poi magari sarà tutta diversa la storia, ma resterà questo nella memoria. Mi dai un voto al primo Ventura in attesa del campo? Giovanni, io non al lo primo riconosco Ventura. Ventura è un uomo che stimo profondamente, un mio coetaneo. L'età non è necessariamente sinonimo di saggezza, però lui è un uomo veramente saggio, prudente, amabile, divertente, ironico. Io apprezzo il fatto che copra quel ruolo in quel momento, però intanto vorrei sapere se oggi, quando parlerà o se parlerà, ritoccherà in qualche modo questa affermazione che mi sembra abbastanza imprudente, parlo di quella di Berardi. E poi sinceramente, un uomo messo lì proprio per le sue capacità, vogliamo dire anche paterne oltre che tecniche, deve partire dall'inclusione e non dall'esclusione. Persino Conte, che sinceramente non è il massimo della simpatia comunicativa, anche se ha dei meriti tecnici e sportivi che gli vanno infinitamente riconosciuti, non sbagliò la sua prima conferenza stampa, fu quasi amabile, quasi simpatico, il che vuol dire che quella conferenza stampa l'aveva preparata, aveva preparato le domande su Balotelli, aveva preparato i tranelli, aveva preparato il fatto che qualcuno gli disse che un allenatore squalificato o squalificando non poteva allenare la nazionale. Non sbagliò veramente un passaggio, e anche su Balotelli, persino su Balotelli è stato diabolico, perché dopo aver in qualche modo dribblato elegantemente, lo ricorderai, le prime domande, poi lo convocò contro le previsioni di tutti, e fu quella convocazione che fu la morte in azzurro di Balotelli, perché Balotelli in quella convocazione davanti a Conti gli diede ragione e si suicidò con le sue mani. Allora io metto in frigorifero anch'io, come fa Ventura con Berardi, un voto in questo momento, una convocazione. Diciamo che mi aspetto qualcosa di meglio da lui e da chi gli sta vicino, sapendo perfettamente le domande che arrivano alla conferenza. Sì, che sarebbe da preparare. L'ultimo voto sulla storia più autolesionista di questo fine settimana. Riguardo a Monza, ve l'ho detto, noi teniamo i piedi per terra, qui abbiamo dimostrato di lavorare bene, abbiamo dimostrato che la gente a casa e qui c'è. Adesso giriamo pagina, concentrati su Monza perché è il Gran Premio d'Italia e per noi è importante. Questo arriva bene, concentrato su Monza che c'è in questo fine settimana. Voto alla Ferrari tafazziana, dalle pressioni ai pronostici, ai piloti che si scontrano. Quattro, perché alla fine, con tutto quello che di sguaiato può aver combinato Verstappen, che è un ragazzo sicuramente un pochino effervescente, diciamo così, poi gli altri, soprattutto un altro, non Raikkonen, ma Vettel, se l'è andata veramente a cercare. Ora guardiamo come tutti gli anni, da 60 e passa anni a questa parte, a Monza come alla Mecca. Io ricordo il 1988, pochi giorni dopo la fine di la morte di Ferrari, che a Monza arrivavamo imprevedibilmente primi e secondi all'epoca di Berger, quando non avevamo, dico avevamo perché siamo tutti ferraristi, le macchine, però quello fu un miracolo. Con Senna che si girò su un cordolo un paio di giri dalla fine, se non ricordo. Sì, veramente ci fu il vecchio che mise il ditone dall'alto, sì, insomma. Sì. Però pensare a Monza come un'entità taumaturgica dopo gli errori degli ultimi tre mesi, dai, ci fa capire che la Ferrari, purtroppo in questo momento, parlando in termini di cavalli, ma in questo caso cavalli che vanno sugli zoccoli, è in rottura prolungata, e mi dispiace perché non possiamo non amare questa nazionale rossa. Grazie Marino. Ciao, un abbraccio. Grazie Marino Bartoletti. Chiudiamo con Andrea da Verona. Andrea? Sì, ciao, buongiorno a tutti. Eccoci. Volevo parlare un po' del mistero Berardi-Gabbiadini. Sì. Nel senso che sono due giocatori che hanno delle prestazioni davvero eccezionali. Entra Gabbiadini, segna 4 gol, 3 gol, 8 gol, 7 gol, eppure Napoli lo vuol vendere all'Everton. Sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra. Berardi è altro giocatore fondamentale per il Sassuolo, abbiamo assistito a una tiritera con la Juve, vuole, non lo vuole, lo prende, non lo prende, alla fine lo lascia lì. No, la Juve l'avrebbe voluto, in questo in realtà ti correggo, ha deciso lui, però prego. È un mistero, nel senso che o questi due giocatori hanno un atteggiamento fuori dal campo che noi non conosciamo e quindi li blocca nell'esplodere, oppure c'è qualcosa che non mi spiego. Io credo, Andrea, che invece no. Cioè, io credo che Berardi sia già esploso, e lo dicono i numeri. Su Gabbiadini io la penso come te, però se c'è un allenatore che non riesce a trovargli una collocazione tattica, è meglio forse anche per Gabbiadini andare a fare il titolare ed esprimere appieno le sue potenzialità altrove. Secondo me il Napoli ci perde, però è anche legittimo. Insomma, gli allenatori sono lì anche per decidere che cosa serve singolo movimento per singolo movimento, anche se, ripeto, io fossi il Napoli, Gabbiadini me lo terrei. Chiudiamo qui, sì. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Giovanni Melchiori in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Noi torniamo domani dopo il GR delle 14. Ciao. Fatto, dai, spegni il bianco, il rosso o il verde, dai, uno dei tre, spegni.